North Sardinia Island. Attale. Oi. Aspetta un attimo. Oh yeah. 7351, dai, operatore Tango India 90 Oscar Tino. Dalla città di Sassari. Alfa Mike, ok? Va bene, andata lì. AM, dai. Ciao T. Ciao. Hola, bene. Piccola quattrincina. Attenzione, si ascolti questa piccola stazione, cambio della città di Sassari. Si ascolta, ma ci sono troppe sovrammurazioni, ma è pieno, ok? CQDX nord della Sardegna, Breco. CQ1, Automike, ascolti, nord della Sardegna, Breco. Hola, Alfa Mike. E beh, certo, cosa c'è, sto, illuminami. Guardi, che c'è stato, non vedo. Bene, sono sceso, sto. Fino a essere tu, già. Ma ho capito. E se sembra bene, radio perfetto. Bene. E cosa ci racconti? Ho già combinato stasera. Ho già combinato, mi sono da fanno un giro se vuoi rientrare. Beh, cosa c'è? No, già con l'aria condizionata in macchina, quindi no, non me ne accorgo più. Ma se già prenderò una via, quindi devo rientrare per forza. C'avevi fresco in macchina, per cui hai fatto bene. Ma infatti, non ti faccio un giro, adesso vuoi rientrare. Io mi sto guardando dalla TV e stavo ascoltando. Dai, rimango in ascolto a te. Io sono qua, ok, ti sentiamo a te. Sì, ciao, Gianmarco.